Scusa, non mi scusa. Cerca di stare almeno un'ora senza parlare. Non mi scusa. Tanto muore pure tu. Non mi scusa. Non mi scusa. Con i tuoi discorsi intellettuali. Stop.